Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, traduzione di Donatella Ziliotto, Annuska Palme Sanavio e Samantha Kay Milton Knowles. Pippi scrive una lettera e va a scuola, ma solo un pochino. Oggi, disse Tommy, io e Annika abbiamo scritto una lettera alla nonna. Ah sì? Fece Pippi continuando a mescolare il contenuto della pentola con il manico dell'ombrello. Sarà un pranzetto delizioso, disse infilando il naso dentro per annusare. Bollire per un'ora mescolando vigorosamente e servire subito senza zenzero. Cos'è che hai detto? Hai scritto a tua nonna? Sì, disse Tommy, dondolando le gambe seduto sul cassone della legna. Ci risponderà sicuramente presto. Io non ricevo mai lettere, disse Pippi indignata. Beh, però non ne scrivi neanche, disse Annika. Non si possono ricevere lettere se non se ne scrivono mai. E questo è solo perché non vuoi andare a scuola, disse Tommy. Non puoi imparare a scrivere senza andare a scuola. Ma io so scrivere, disse Pippi. So scrivere un sacco di lettere dell'alfabeto. Fridolf, uno dei marinai di mio padre, mi ha insegnato un mucchio di lettere. E quando non mi ricordo quali lettere usare, ci sono sempre i numeri. Sì, certo che so scrivere, però non so cosa scrivere. Che cosa si scrive di solito in una lettera? Beh, disse Tommy. Per prima cosa io di solito chiedo alla nonna come sta e le dico che io sto bene. Dopodiché parlo un po' del tempo, cose del genere. Oggi le ho anche scritto di aver ucciso un grosso ratto in cantina. Pippi continuò a mescolare meditabonda. Povera me che non ricevo mai lettere. Tutti gli altri bambini ricevono della posta. Non si può continuare così. Se poi non ho nessuna nonna che mi può scrivere, posso sempre scrivere a me stessa. Anzi, lo faccio subito. Aprì lo sportello del forno e ci guardò dentro. Dovrebbe esserci una penna qui, se non ricordo male. La penna c'era e Pippi la prese. Quindi strappò a metà un sacchetto di carta e si sedette al tavolo della cucina con la fronte aggrottata e l'aria molto pensierosa. Non disturbatemi, disse. Sto pensando. Nel frattempo, Tommy e Annika decisero di giocare un po' con il signor Nilsson, alternandosi nel mettergli e togliergli il vestitino. Annika, che voleva giocare all'infermiera, cercò anche di infilarlo nel lettino verde per le bambole. Tommy avrebbe fatto il dottore e il signor Nilsson il bambino malato. Ma il signor Nilsson continuava a strisciare fuori dal letto e raggiungere con un balzo il lampadario per dondolarsi dall'assù appeso per la coda. Pippi alzò un occhio dal foglio. «Stupido signor Nilsson», disse. «I bambini malati non si spenzolano dai lampadari appesi per la coda, non da queste parti almeno. Ho sentito dire che in Sudafrica succede». Laggiù, appena un bambino ha un po' di febbre, lo appendono al lampadario e ce lo lasciano finché non guarisce. Ma sia chiaro, qui non siamo in Sudafrica. Alla fine, Tommy e Annika lasciarono in pace il signor Nilsson e si misero a strigliare il cavallo, che fu molto contento quando lo raggiunsero sulla veranda. Annusò loro le mani per vedere se avevano qualche zolletta di zucchero. Non ne avevano, ma Annika corse subito in cucina a prenderne un paio. Pippi scriveva e scriveva. Poi, finalmente, la lettera fu pronta. Non aveva nessuna busta, ma Tommy corse a prenderne una a casa sua e già che c'era portò anche un francobollo. Pippi tracciò meticolosamente il suo nome sulla busta: Signorina Pippilotta Calzelunghe, Villa Villa Colle. Che cosa c'è scritto nella lettera? Chiese Annika. E io come faccio a saperlo? Disse Pippi. Non l'ho ancora ricevuta. Proprio in quel momento il postino si trovò a passare di lì. Che fortuna! A volte si incontra il postino proprio quando se ne ha bisogno, disse Pippi e corse in strada. Per favore, puoi andare immediatamente con questa lettera da Pippi Calzelunghe? È urgente. Il postino guardò prima la lettera e poi Pippi. Non sei tu Pippi Calzelunghe? Chiese. Certo, chi credevi che fossi se no? L'imperatrice di Abissinia? Beh, perché non la porti tu stessa allora? Disse il postino. Perché non la porto io stessa? Dovrei portarla io? No, questo è troppo. Adesso la gente deve portarsi le lettere da sola. A che cosa servono allora i postini? Tanto vale rottamarli tutti subito. Mai sentita una scemenza simile? Eh no, caro mio. Se è così che lavori non diventerai mai capo postino, credimi. Il postino decise che era meglio accontentarla e andò a depositare la lettera nella cassetta di Villa Villa Colle. La lettera non aveva neanche fatto in tempo a cadere sul fondo della cassetta che Pippi, come una furia, l'aveva già presa. Oh, sono così curiosa, disse a Tommy e Annika. È la prima lettera che ricevo in tutta la mia vita. I tre bambini si sedettero sui gradini della veranda e Pippi aprì la busta di gran fretta. Tommy e Annika lessero da sopra la sua spalla. La lettera diceva così: Cara Pippi, spero che non sei malata, perché sarebbe un peccato. Se anche sei malata, io sto benone e anche il tempo non c'è male. Ieri Tommy ha mazzato un topo. Davvero? Saluti da Pippi. Oh, disse Pippi felice. Nella mia lettera c'è scritto proprio quello che tu hai scritto alla tua nonna, Tommy. Allora si può stare sicuri, è proprio una vera lettera. La conserverò per tutta la vita. E la rimise nella busta. Poi infilò la busta in uno dei piccoli cassetti del grande comò che stava nel salotto. Per Tommy e Annika non c'era quasi nulla di più divertente che guardare i begli oggetti riposti nel comò di Pippi. Di tanto in tanto Pippi regalava loro qualcosa, ma i cassettini erano comunque sempre pieni. In ogni caso, disse Tommy dopo che Pippi ebbe infilato la busta nel cassetto, c'erano un sacco di errori di ortografia nella lettera. Eh sì, dovresti proprio andare a scuola e imparare a scrivere un po' meglio, disse Annika. Grazie mille, disse Pippi, ma l'ho fatto una volta per un giorno intero e ho accumulato talmente tanta conoscenza che mi sciaborda ancora nella testa. Però uno di questi giorni andremo in gita, disse Annika, tutta la classe. Mannaggia, disse Pippi mordendosi una treccia. Mannaggia, e ovviamente io non posso venire solo perché non vado a scuola. La gente crede di potersi comportare come vuole con una persona solo perché non è andata a scuola a imparare le mortificazioni. Moltiplicazioni, corresse Annika. E io che ho detto? Mortificazioni. Cammineremo per 10 chilometri nel bosco e poi ci fermeremo lì a giocare, disse Tommy. Mannaggia, ripeté Pippi. Il giorno dopo era una giornata talmente bella e calda che i bambini della cittadina facevano fatica a stare seduti e fermi ai loro banchi. La maestra aprì tutte le finestre per lasciare entrare il sole. Proprio davanti alla facciata della scuola cresceva una betulla e in cima c'era uno stormo che fischiettava allegramente. Tommy e Annika e i loro compagni ascoltavano solo lui e non gliene importava niente di 9x9 uguale 81. Improvvisamente Tommy fece un salto dallo stupore. «Maestra, guardi!» gridò indicando fuori dalla finestra. «C'è Pippi!» Tutti i bambini volsero lo sguardo nella stessa direzione e in effetti su un ramo della betulla c'era proprio Pippi, seduta vicinissima alla finestra perché il ramo arrivava fino al davanzale. «Ciao, maestra!» disse Pippi. «Ciao, ragazzi!» «Buongiorno, cara Pippi!» disse la maestra. Una volta Pippi era andata a scuola per un giorno intero, per cui la maestra la conosceva molto bene. Pippi e la maestra erano rimaste d'accordo che lei sarebbe potuta tornare a scuola quando fosse diventata più grande e giudiziosa. «Che cosa vuoi, cara Pippi?» chiese la maestra. «Beh, volevo chiederti di buttarmi un po' di mortificazioni dalla finestra», disse Pippi. «Quanto basta per poter venire con voi alla gita? E se avete inventato altre lettere dell'alfabeto, puoi buttarmi anche quelle». «Non vuoi entrare un po'?» chiese la maestra. «Preferirei di no», disse sincera Pippi appoggiandosi comodamente con la schiena contro il ramo. «Mi gira la testa là dentro, c'è talmente tanta conoscenza che si taglia col coltello». «Ma secondo te, maestra», continuò speranzosa, «non è che un po' di questa conoscenza vola fuori dalla finestra e mi si appiccica addosso? Quanto basta per poter venire anch'io con voi alla gita?» «Potrebbe anche darsi», disse la maestra continuando la lezione di aritmetica. Ai bambini piaceva avere Pippi seduta fuori sull'albero. Tutti infatti avevano ricevuto caramelle e giocattoli quel giorno in cui Pippi era andata a far compere nei negozi. Pippi naturalmente aveva con sé il signor Nilsson e i bambini trovavano molto divertente vederlo saltare da un ramo all'altro. Di tanto in tanto saltava anche dentro alla finestra e una volta fece un gran balzo, atterrò sulla testa di Tommy e cominciò a grattargli i capelli. Ma allora la maestra disse a Pippi di richiamare il signor Nilsson perché Tommy stava calcolando quanto fa 315-46 ed è impossibile farlo con una scimmia sulla testa. Insomma, tra il sole di primavera, lo storno, Pippi e il signor Nilsson non c'era verso di fare lezione. I bambini erano troppo distratti. «Ragazzi, mi sembrate tutti impazziti», disse la maestra. «Eh sì, maestra, sai una cosa», disse Pippi dall'albero, «a essere sinceri, oggi non è la giornata adatta per le mortificazioni». «Adesso però non stiamo facendo moltiplicazioni, ma le sottrazioni», disse la maestra. In una giornata come questa non bisognerebbe proprio farne di zioni, disse Pippi. Beh, al limite un po' di ricreazioni. Allora la maestra si arrese. Magari alle ricreazioni puoi pensarci tu, Pippi? Chiese. No, non sono così brava con le ricreazioni, disse Pippi dondolandosi dal ramo appesa per le ginocchia con le trecce rosse che quasi spazzavano terra. Però conosco una scuola dove non si fa nient'altro. Tutto il giorno ricreazioni, c'è scritto sull'orario. Ah sì, disse la maestra. E dove si trova questa scuola? In Australia, in un paesino con la stazione ferroviaria, a sud, disse Pippi. Poi si ritirò su a sedere sul ramo con gli occhi che le luccicavano. E come fanno? Chiese la maestra. Dipende, disse Pippi. Per lo più cominciano con il saltare dalla finestra uno dopo l'altro, poi cacciano un potente urlo e infine si precipitano di nuovo in classe e una volta lì saltano sui banchi finché ce la fanno. Ma la loro insegnante che cosa dice? Chiese la maestra. Salta pure lei, disse Pippi, più di tutti. E poi i bambini si prendono a botte per una mezz'ora o giù di lì, mentre la maestra fa il tifo. Se piove, tutti i ragazzi si tolgono i vestiti ed escono sotto la pioggia a saltare e ballare. La maestra suona per loro una marcia all'organo per fargli tenere il tempo. Alcuni si mettono addirittura sotto la grondaia per farsi una doccia come si deve. Ah sì, eh? Disse la maestra. Proprio così, disse Pippi. È davvero un'ottima scuola, una delle migliori in Australia, solo che si trova molto a sud. Me lo immagino, disse la maestra. Comunque, non credo che ci divertiremo così tanto in questa scuola. Peccato, disse Pippi. Se si trattava solo di saltare sui banchi, potevo anche trovare il coraggio di entrare per un po'. E credo che dovrei aspettare la gita per saltare, disse la maestra. Davvero? Posso venire con voi? Gridò Pippi e dalla felicità scese dall'albero facendo una capriola all'indietro. Ora scrivo a quelli dell'Australia per dirglielo. Poi possono continuare quanto vogliono con le loro ricreazioni, perché tanto è molto più divertente andare in gita. Pippi va in gita scolastica. Per la strada si sentiva un gran scalpiccio di piedi e suoni di chiacchiere e risate. C'era Tommy con lo zaino in spalla e Annika che indossava un vestitino di cotone nuovo di zecca. E c'erano la maestra e tutti i loro compagni di classe, tranne un poveretto a cui era venuto il mal di gola proprio il giorno della gita. Apriva la fila Pippi in groppa al cavallo e in sella dietro di lei stava il signor Nilsson con il suo specchietto in mano. Giocava a fare l'uminello e quando riuscì a dirottare un raggio di sole dritto nell'occhio di Tommy fece un'espressione immensamente soddisfatta. Annika era stata convintissima che proprio quel giorno sarebbe piovuto, tanto convinta che si era quasi arrabbiata preventivamente. Ma pensate quanto si è fortunati a volte. Il sole, come se non avesse fatto in tempo a fermarsi, continuò a splendere nonostante fosse il giorno della gita. E ad Annika il cuore saltellava in petto dalla gioia mentre camminava per strada col suo vestitino di cotone nuovo nuovo. Del resto, tutti i bambini sembravano contenti ed entusiasti. Il bordo della strada era pieno di piccoli cespugli di salice e a un certo punto passarono vicino a un intero campo di primule odorose. I bambini decisero che al ritorno avrebbero raccolto un fascio di rametti di salice e un grosso mazzo di primule. Che bella, bellissima giornata! Sospirò Annika guardando Pippi seduta sul suo cavallo con la schiena dritta come un generale. Non mi divertivo tanto da quando ho fatto a botte con quel peso massimo a San Francisco, disse Pippi. Vuoi cavalcare un po'? Certo che Annika voleva. Pippi la sollevò davanti a sé sul cavallo, ma quando gli altri bambini se ne accorsero, vollero andare sul cavallo anche loro, ovvio. E uno dopo l'altro cavalcarono tutti. Però Annika e Tommy cavalcarono un po' più a lungo degli altri. E una bambina a cui era venuta una vescica sotto un piede ebbe il permesso di stare seduta dietro a Pippi per tutto il tragitto, anche se il signor Nilsson le tirava le trecce ogni volta che ne aveva l'occasione. La meta della gita era un bosco, chiamato il Bosco dei Troll, perché sembrava uscito direttamente da una fiaba, da quanto era bello. Quando furono quasi arrivati, Pippi saltò giù dalla sella, accarezzò il cavallo e disse: Ci hai portato in groppa talmente a lungo che devi essere stanco. Non si può certo fare fatica tutto il tempo. E poi sollevò il cavallo sulle sue forti braccia e lo trasportò fino a quando non arrivarono in una piccola radura nel bosco. La maestra disse di fermarsi e Pippi, guardandosi intorno, gridò: Venite avanti, troll, tutti insieme, così vedremo chi è il più forte. Ma la maestra le spiegò che anche se il bosco si chiamava Bosco dei Troll, di troll non ce n'erano. Pippi ne fu molto delusa. Un bosco dei troll senza troll? Che sciocchezza è mai questa? Troll Tra un po' si metteranno in testa anche di fare i segnali di fumo senza fumo e l'albero di Natale senza albero, per pura tirchieria. Ma il giorno in cui cominceranno con i negozi di caramelle senza caramelle, allora andrò a dirgliene quattro. Beh, mi sa che tocca a me fare il troll, non vedo altra soluzione. E cacciò un ruggito così terribile che la maestra dovette tapparsi le orecchie e alcuni bambini si spaventarono a morte. Dai, facciamo che Pippi era un troll! Gridò Tommy felice battendo le mani. Tutti i bambini la trovarono un'ottima proposta. Il troll si piazzò in un profondo crepaccio dove avrebbe avuto la sua tana, mentre i bambini correvano tutti intorno e lo prendevano in giro gridando «Stupido, stupido troll, stupido, stupido troll!». E a quel punto il mostro si precipitava fuori ruggendo forte, inseguendo i bambini che correvano in tutte le direzioni a nascondersi. Quelli che venivano presi venivano trascinati nella tana e il troll li minacciava di cucinarseli a pranzo. A volte però riuscivano a fuggire mentre il troll era fuori a caccia di nuove vittime, ma per farlo dovevano arrampicarsi sulla parete rocciosa per uscire dal crepaccio e non era per niente facile. C'era soltanto un minuscolo pino a cui aggrapparsi ed era complicato capire dove mettere i piedi, però era eccitante e per i bambini era il gioco più divertente che avessero mai fatto. La maestra, sdraiata sull'erba verde, leggeva un libro, gettando di tanto in tanto un'occhiata ai bambini. Questo è veramente il troll più selvaggio che io abbia mai visto, mormorava tra sé e sé. E aveva proprio ragione. Il troll saltava e urlava buttandosi sulla spalla tre o quattro bambini alla volta per trascinarli nella tana. Di tanto in tanto si arrampicava a velocità tremenda sugli alberi più alti, per poi saltare di ramo in ramo proprio come una scimmia. Oppure saltava in groppa al cavallo per inseguire quelli che cercavano di fuggire nel bosco. E mentre si avvicinava al galoppo si chinava e li acchiappava al volo, li gettava davanti a sé e cavalcava con loro come un fulmine verso la tana gridando «Ora con voi ci faccio un bel pranzetto!». Era così divertente che i bambini non volevano più smettere. Ma tutto a un tratto ci fu un gran silenzio. E quando Tommy e Annika arrivarono correndo per vedere cos'era successo, trovarono il troll seduto su un masso con un'aria strana, a fissare qualcosa che teneva in mano. «È morto. Guarda, è tutto morto», disse il troll. «Era un uccellino morto cadendo dal nido». «Oh, poverino», disse Annika. Il troll annuì. «Pippi, stai piangendo», disse improvvisamente Tommy. «Io piangere?» rispose Pippi. «No, che non piango». «Ma hai gli occhi tutti rossi», insiste Tommy. «Occhi rossi?» disse Pippi prendendo in prestito lo specchietto del signor Nilsson per controllare. «E questi li chiami occhi rossi? Allora saresti dovuto essere con me e il mio papà a Batavia. Lì c'era un omino che aveva gli occhi talmente rossi che la polizia gli proibì di farsi vedere per strada». «E perché?» chiese Tommy. «Perché la gente credeva che fosse un semaforo, no? Quando passava paralizzava completamente il traffico. Occhi rossi io? No, non puoi credere che io pianga per questo misero uccellino», disse Pippi. «Stupido, stupido troll, stupido, stupido troll!» I bambini arrivarono correndo da ogni direzione per vedere dove si fosse cacciato il troll. Quest'ultimo prese quel misero uccellino e lo posò con molta cautela su un letto di morbido muschio. «Se potessi ti ridarei la vita», sussurrò con un profondo sospiro. Dopodiché fece un ruggito spaventoso. «Ora con voi ci faccio un bel pranzetto!» gridò. E tutti i bambini scomparvero in mezzo ai cespugli tra le alte grida di gioia. Una delle bambine della classe, che si chiamava Ulla, abitava in una casa vicina al bosco dei troll. La mamma di Ulla le aveva promesso che avrebbe invitato la sua maestra, i suoi compagni e anche Pippi, naturalmente, per una merenda in giardino. Così, dopo che i bambini ebbero giocato al troll per un bel po' di tempo, dopo che si furono arrampicati un po' sulla montagna, dopo che ebbero fatto navigare le barchette di corteccia d'albero in una grossa pozzanghera e fatto a gara chi aveva il coraggio di saltare da un alto masso, Ulla disse che era ora di andare a casa sua a bere lo sciroppo di frutta. E la maestra, che aveva letto il libro da cima a fondo, fu d'accordo. Radunò i bambini in un gregge compatto e tutti lasciarono il bosco dei troll. Sulla strada incontrarono un uomo con un carro carico di sacchi. I sacchi erano tanti e molto pesanti, e il cavallo era vecchio e stanco. Tutto a un tratto, una ruota del carro finì nel fosso. L'uomo, che si chiamava Blomsterlund, si arrabbiò terribilmente, dando la colpa al cavallo. Tirò fuori la frusta e un attimo dopo una grandinata di frustate si abbatté sul dorso dell'animale. Il cavallo tirava e strattonava con tutte le sue forze per cercare di riportare il carro sulla strada, ma invano. Più Blomsterlund si arrabbiava, più forte colpiva il cavallo. Proprio in quel momento la maestra lo vide e si impietosì per quel povero animale. «Come potete colpire una bestia in questo modo?» disse a Blomsterlund. L'uomo si fermò un attimo, sputò a terra e poi rispose «Non si mischi in cose che non la riguardano, altrimenti potrei anche farvi assaggiare la frusta, tutti quanti!» Detto questo, sputò un'altra volta e riprese a colpire il cavallo che tremava come una foglia. Proprio allora una specie di fulmine serpeggiò tra i bambini. Era Pippi col naso pallidissimo e quando Pippi aveva il naso pallido voleva dire che era furibonda. Tommy e Annika lo sapevano bene. Pippi si precipitò dritta da Blomsterlund, lo prese per la vita e lo lanciò in aria. Quando quello cadde, lei lo riprese al volo e lo lanciò in aria un'altra volta. 4 volte, 5 volte, 6 volte Blomsterlund volò per aria senza neanche capire quello che gli stava succedendo. «Aiuto, aiuto!» gridava terrorizzato. E infine cadde con un tonfo sulla strada. La frusta gli era sfuggita di mano. Pippi gli si piazzò proprio di fronte, con le mani sui fianchi. «Non colpire mai più il cavallo», disse decisa. «Non farlo mai più, hai capito? Una volta giù a Città del Capo incontrai un altro uomo che picchiava il suo cavallo. Quest'uomo aveva una bellissima uniforme e io gli dissi che se avesse colpito ancora il cavallo gliene avrei date talmente tante che della sua bella uniforme non sarebbe rimasto neanche un filo. Una settimana dopo picchiò di nuovo il cavallo. Che peccato per quell'uniforme così bella!» Blomsterlund era ancora seduto sulla strada tutto stordito. «Dove devi andare con quel carico?» chiese Pippi. Blomsterlund indicò spaventato una casetta di legno poco lontano. «Lì, a casa!» disse. Allora Pippi staccò dal carro il cavallo che tremava ancora di stanchezza e di paura. «Su, su, cavallino!» disse. «Ora si cambia musica!» Detto questo, lo sollevò sulle sue forti braccia e lo portò fino alla stalla. Il cavallo era sbalordito quanto Blomsterlund. I bambini e la maestra rimasero sulla strada ad aspettare Pippi e Blomsterlund rimase vicino al suo carro a grattarsi la testa. Non sapeva come farlo arrivare fino a casa. Quando Pippi tornò, prese uno dei pesanti sacchi e glielo caricò in spalla. «Bene, bene, adesso vediamo se a trasportare i sacchi sei bravo quanto a picchiare», disse Pippi impugnando la frusta. «In realtà dovrei farti assaggiare questa, visto che ti piacciono tanto le frustate, ma a quanto pare sia un po' rotta», disse spezzandone un pezzo. «Anzi, purtroppo si è rotta del tutto», disse riducendola in minuscoli pezzettini. Blomsterlund se ne andò arrancando sotto il peso del sacco, senza dire una parola. Si lasciò scappare solo un respirone. Allora Pippi, impugnate le stanghe, tirò il carretto fino alla casa. «Di niente, non ti costerà nulla», disse dopo aver sistemato il carro davanti alla stalla. «L'ho fatto volentieri, anche i voli per aria sono gratis». E se ne andò, lasciando Blomsterlund a fissarla imbambolato. «Viva Pippi!» gridarono i bambini al suo ritorno. Anche la maestra era contenta e si complimentò con lei. «Hai fatto bene», disse. «Bisogna essere gentili con gli animali e anche con gli uomini, naturalmente». Pippi, seduta in groppa al cavallo, sembrava proprio soddisfatta. «Beh, io sono stata gentile, perlomeno con Blomsterlund. Volare così tanto è gratis!» «È per questo che siamo qui sulla terra», proseguì la maestra, «per essere buoni e gentili con gli altri». Pippi si mise in verticale sulla schiena del cavallo e agitò le gambe. Disse, «e gli altri allora perché sono qui?» Nel giardino di Ulla c'era un grande tavolo apparecchiato. C'erano talmente tante girandole alla cannella e biscotti che a tutti i bambini venne l'acquolina in bocca, per cui si affrettarono a sedersi. Pippi si sistemò a capotavola e la prima cosa che fece fu ficcarsi in bocca 2 girandole alla cannella. Sembrava un cherubino con le guance rotonde come palle. «Pippi, di solito non si comincia a mangiare prima di essere invitati a farlo», disse la maestra in tono di rimprovero. «Nessun problema», biascicò Pippi tra una girandola e l'altra. «Non faccio tanto caso alle convenzioni». Proprio allora la mamma di Ulla arrivò da Pippi con una caraffa di sciroppo in una mano e un bricco di cioccolata nell'altra. «Sciroppo o cioccolata?» chiese. «Sciroppo e cioccolata», disse Pippi. «Sciroppo con una girandola e cioccolata con un'altra». E senza tante cerimonie le prese di mano sia la caraffa con lo sciroppo che il bricco di cioccolata e beve un lungo sorso di ognuno. «È stata in mare tutta la vita», sussurrò la maestra alla mamma di Ulla rimasta sbalordita per spiegarle la situazione. «Capisco», annuì quella e decise di non fare caso alle pessime maniere di Pippi. «Biscotti allo zenzero?» chiese porgendo un piatto a Pippi. «Sembrerebbe proprio di sì», disse Pippi ridacchiando divertita. «A dire il vero non sono venuti proprio benissimo, ma spero che siano buoni lo stesso», disse prendendone una bella manciata. Poi scorse un po' più in là sul tavolo alcuni bellissimi pasticcini rosa. Tirò delicatamente la coda al signor Nilsson e gli disse: «Senti, signor Nilsson, filla laggiù a prendermi uno di quegli aggeggi rosa. Anzi, prendimene due o tre». E la scimmietta corse via lungo il tavolo facendo schizzare lo sciroppo dai bicchieri. «Spero tu sia sazia adesso», disse la mamma di Ulla quando Pippi arrivò da lei per ringraziarla a merenda finita. «Beh, proprio sazia non sono, ma ho sete», disse Pippi grattandosi un orecchio. «Mi spiace, non avevamo molto da offrire», disse la mamma di Ulla. «Beh, ma era pressappoco ancora meno», disse Pippi gentilmente. Allora la maestra decise di parlare un po' a Pippi di buone maniere. «Ascolta, cara Pippi», disse gentilmente. «Tu vuoi diventare una signora proprio per bene quando sarai grande, vero? Vuoi dire una di quelle con la veletta sul naso e il triplo mento? Voglio dire una signora che sa sempre come ci si comporta e che è sempre gentile e ben educata. Non vuoi diventare una signora proprio per bene?» «Ci devo pensare», disse Pippi, «perché vedi, maestra, io avrei già deciso di diventare un pirata quando sarò grande». E dopo aver riflettuto un momento riprese: «Ma non credi che potrei essere un pirata e allo stesso tempo una signora proprio per bene? Perché in tal caso...» Secondo la maestra però non era possibile. «Oh no, allora come farò a decidere?» disse Pippi disperata. La maestra disse che qualsiasi vita avrebbe scelto non le avrebbe fatto certo male imparare un po' di buone maniere. A tavola non ci si poteva proprio comportare come aveva fatto Pippi poc'anzi. «Perché è così difficile capire come ci si deve comportare?» sospirò Pippi. «Non puoi spiegarmi le regole più importanti?» La maestra spiegò meglio che poté e Pippi ascoltò interessata. Le disse che non ci si poteva servire da soli prima di essere invitati a farlo, non si poteva prendere più di un biscotto alla volta, non si poteva mangiare con il coltello, non ci si poteva grattare quando si parlava con un'altra persona, non si poteva fare questo e nemmeno quest'altro. Pippi annuiva meditabonda. «Mi alzerò un'ora prima ogni mattina per esercitarmi», disse. «Voglio imparare il trucco se per caso decido di non diventare un pirata». Poco lontano dalla maestra e da Pippi, seduta sul prato, c'era Annika, immersa nei suoi pensieri e con le dita nel naso. «Annika!» urlò Pippi severa. «Ma cosa stai facendo? Ricordati che una signora proprio per bene si mette le dita nel naso solo quando è completamente sola». Ma poi la maestra disse che era ora di marciare verso casa e tutti i bambini si misero in fila. Solo Pippi rimase seduta sul prato con un'espressione concentrata, come se stesse ascoltando qualcosa. «Che ti succede, cara Pippi?» chiese la maestra. «Maestra, senti», disse Pippi, «ha una signora proprio per bene. Può abbrontolare lo stomaco?» Rimase silenziosa per un po' in ascolto e alla fine disse: «Perché se non può, tanto vale che decida subito di diventare un pirata». Valentina Carnelutti ha letto Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Regia di Luigi Iavarone. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma di Rai Radio 3.